c'è? Sì, qui. Poi mi ha un'altra macchina, per la curiosità, dato me ne vado a fare ancora l'angolo, io la passo via. Perché la valle di lì non ve la fate insieme? Poi non l'ho fatta, no. Non ho finito per la linea del cespuglio, diciamo, lungo, ne avevo ancora 5 passate, poi iniziamo a lungo. Tu stai da una parte, lui sta dall'altra parte. Ah, se ve la unite al centro. Ecco, ve la qui sopra, andiamo a fare la manovra, uno arriva prima, uno arriva dopo.